Sereno e sicuro di te, capirai che è meglio vivere senza mollare mai, senza fingere di essere sapientoni che sanno la vita degli altri e di sé, ne siamo soltanto uomini che aspirano a poi chissà, no. Ma conosco un uomo che parlava di felicità nel tempo e nell'eternità. È importante non farsi sfuggire questa differenza così profonda. È sottile allo stesso momento, ma che riesce a cambiar volta la nostra vita. Quindi forse è meglio vivere con coscienza e coraggio, pur sbagliando, perché noi siamo uomini. Ma proprio questo ci rende unici, siamo fatti per l'eternità. La prova è l'amore che ce l'ha.